Allora, sono qui con Alessandro D'Alessio. Alessandro, potresti spiegarci cos'è il festival Obiettivo Corto, come è nato, dato che tu sei l'ideatore del progetto? Sì, ciao intanto a tutti i radioascoltatori. Il festival sostanzialmente nasce dall'idea di portare il cinema e le arti cinematografiche al basso, diciamo, e questo dando l'opportunità a chiunque voglia cimentarsi e concorrere con delle proprie opere attraverso l'utilizzo dello smartphone, quindi di uno strumento, di un dispositivo che è nelle tasche oramai di tutti quanti, possiamo, ecco, realizzare delle piccole opere audiovisive da poter mostrare anche agli altri. L'idea nasce fondamentalmente per poterlo in particolar modo portare ai ragazzi all'interno delle scuole, tant'è vero che il festival nasce proprio in quella direzione. Purtroppo, chiaramente per questioni di Covid, questa prima edizione non vedrà questa sezione dedicata alla scuola per ovvie ragioni di limitazione e di restrizioni, ma ci auguriamo appunto che per la seconda edizione, quindi quella del 2022, di poter essere di nuovo operativi e di poter portare questo progetto proprio per far avvicinare i giovani, le persone insomma più piccole a quest'arte cinematografica, che è considerata la massima espressione, diciamo, visiva per quanto riguarda appunto l'arte. Per cui speriamo che l'anno prossimo ci siano novità in tal senso. Ci speriamo tutti. Quindi, entrando più nello specifico del progetto, a chi è aperto il concorso? Quali sono le modalità di partecipazione e magari le eventuali scadenze? Allora, il concorso è aperto a tutti, che siano professionisti, diciamo, di questo settore e non, senza alcun limite di età. E i termini di iscrizione sono il 31 maggio 2021, salvo proroghe. Le iscrizioni sono partite il 1 febbraio del 2021, quindi di quest'anno. E devo esserti sincero, abbiamo già oltre 150 opere in concorso, nonostante siano passate appena 3-4 settimane, e quindi prevediamo insomma una grossa partecipazione. E la premiazione delle varie sezioni avverrà presumibilmente ad agosto, probabilmente alla fine di agosto. Stiamo verificando, Covid permettendo, se sarà possibile appunto farlo in forma fisica oppure semplicemente in forma digitale, quindi con una premiazione attraverso le piattaforme dedicate. Le sezioni sono cinque, le prime tre, diciamo le principali, sono il miglior corto internazionale, che vede naturalmente opere realizzate da filmmaker provenienti da tutto il mondo; miglior corto italiano, opere dedicate all'Italia, quindi a filmmaker italiani ed in lingua italiana. E devo precisare che in questa sezione c'è anche una sottosezione, chiamiamola così, una menzione speciale, che riguarda il miglior corto in lingua dialettale, perché vogliamo dare anche spazio alla nostra cultura, alle nostre tradizioni e in particolar modo alla nostra splendida lingua dialettale. Terza sezione principale, miglior documentario. Anche questa sezione è aperta a tutte le nazioni, quindi è una sezione internazionale. All'interno sempre di questa sezione ci sono due menzioni speciali: miglior corto dedicato all'ambiente e miglior corto dedicato al mondo animale. Vogliamo cercare di dare maggior risalto sia al tema dell'ambiente, molto sentito in questo periodo, e anche naturalmente ai nostri amici animali. Quindi speriamo che le opere che hanno a tema questi due argomenti siano moltissime. Abbiamo poi due sezioni speciali che, grazie alla collaborazione con il Dipartimento delle Arti dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna, e in particolare con la coordinatrice, la professoressa Innocenti, e quindi con il corso di laurea magistrale in cinema, televisione e produzione multimediale, avremo il premio cosiddetto CITEM, che sarà dedicato ai più giovani, quindi con un'età che va fino ai 25 anni, e sarà giudicato da una giuria specifica composta da giovani e coordinata appunto dalla professoressa Innocenti, che è la coordinatrice del corso di laurea magistrale. Sempre grazie all'Università Alma Mater di Bologna c'è l'altra sezione, ovvero il premio DAMS, coordinato dal professor Cucco del Dipartimento di Danza, Musica e Spettacolo, sempre dell'Alma Mater Bologna, e questa sezione invece è dedicata al miglior corto innovativo e originale, sperimentale, diciamo. E queste sono, diciamo, le sezioni principali. Abbiamo inserito sempre nell'ambito, perché vorrei precisarti che Obiettivo Corto, che è il nome del concorso, è inserito all'interno dell'iCinema Film Festival, che è praticamente un po' la rassegna madre di tutti questi concorsi, e all'interno sempre della Cinema and Film Festival abbiamo inserito questo concorso che si chiama One Minute Italy, che è un format molto semplice. Praticamente in un minuto, titoli compresi, bisogna raccontare l'Italia attraverso la sua cultura, le sue tradizioni, il paesaggio, la lingua, il turismo, l'arte, la musica, le persone, insomma qualsiasi cosa filmata che possa raccontare attraverso l'obiettivo di uno smartphone la nostra Italia. Ed è un festival naturalmente aperto, è in lingua italiana ed aperto a tutti i filmmaker residenti sulla nostra penisola. Beh, anche questo sembra un progetto molto molto molto interessante. Comunque Alessandro, io ti ringrazio enormemente per le informazioni super precise e interessanti che ci hai dato. Ti ringrazio, ti auguro buon lavoro. Niente, in bocca al lupo per questo progetto e per il concorso. Noi vi seguiremo sicuramente. Viva il lupo, ti ringrazio per questa opportunità. Volevo semplicemente aggiungere che chiunque voglia maggiori informazioni può andare sul nostro sito internet, che è www.aicinemafilmfestival.com, iCinema scritto con la i cinema. Grazie di nuovo e un saluto a tutti.